In nome di Allah il misericordioso, il clemente. Il Corano è il libro di Allah l'Altissimo, che include le sue parole, che è stato fatto scendere al suo messaggero Muhammad. In altre parole, è il testo delle parole miracolose di Allah, che è stato fatto scendere al profeta Muhammad, che Allah lo benedica e lo abbia in gloria, in lingua araba ed è testualmente trasmesso, col quale si applica l'adorazione recitandolo, che è stato trasmesso da generazione in generazione, recitato e trasmesso con estrema cura, che inizia con Surat Al-Fatiha, l'aprente, e si conclude con Surat An-Nas, gli uomini. Alla luce di ciò, la traduzione del Corano non è Corano, ma è un commento interpretativo in un'altra lingua, per spiegare il più possibile dei suoi significati. Il Corano è formato da 114 sure, di cui ogni sura è costituita da un gruppo di versetti con un minimo di 3 versetti, Surat al-Kautar, l'abbondanza, ed il massimo di 286 versetti, Surat al-Baqarah, la giovenca. Il tutto è suddiviso in 30 parti. Il periodo della missione profetica durò 23 anni. Gran parte della rivelazione è stata a Mecca e Medina, cioè prima e dopo l'Egira, o durante qualche viaggio del profeta. La rivelazione ebbe inizio a Mecca in una notte dispari nell'ultima decade del mese di Ramadan, con i primi 5 versetti di Surat al-Alaq, l'aderenza. Leggi, in nome del tuo Signore che ha creato. Ha creato l'uomo da un'aderenza. Leggi che il tuo Signore è il generosissimo, colui che ha insegnato mediante il Kalam, che ha insegnato all'uomo quello che non sapeva. L'ultimo versetto che fu rivelato è il 281esimo di Surat al-Baqarah, la giovenca, durante il pellegrinaggio dell'addio nel 10° anno dell'Egira. E temete il giorno in cui sarete ricondotti verso Allah. Allora ogni anima avrà quello che si sarà guadagnato e nessuno subirà un torto. Il testo coranico non è stato fatto scendere tutto in una volta come i precedenti testi rivelati, ma a gruppo di 10, di 5 versetti o di qualche versetto distaccato, secondo delle circostanze, in risposta ad eventi, ricorrenze, domande o interrogativi. Questo per la gran parte del Corano, ma ci sono delle sure che sono state rivelate interamente in una sola volta, come Al-Fatiha, l'aprente, Al-Muddatir, l'avvolto nel mantello, Al-Anam, il bestiame. Tra i tanti argomenti riportati nel Corano troviamo i fondamenti del credo, Al-Aqida, la giurisprudenza, Asharia, la morale, i racconti di messaggeri e profeti precedenti, la storia della creazione, l'aldilà ed altre questioni di vario tipo che sono utili per l'uomo. Dallo studio dei vari versetti si deduce che il Corano ha ben 55 nomi. Ogni nome è riportato in uno o più versetti, di cui Al-Kitab, il libro, An-Nur, la luce, Al-Furqan, il discrimine. La rilegatura del Corano. Il primo passo nella trascrizione del testo avvenne durante la vita del profeta, che incaricò un gruppo di suoi compagni di scrivere di volta in volta le rivelazioni dettate da lui. Costoro furono chiamati gli scribi della rivelazione. Secondo le fonti autentiche, gli scribi della rivelazione furono 25, i più conosciuti tra loro essendo i 4 califfi ben guidati, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Zaid ibn Thabit ed altri. All'epoca del califfato di Abu Bakr ebbe luogo la battaglia di Al-Yamama, nella quale caddero uccisi molti tra coloro che sapevano tutto il Corano a memoria. Nel timore di perdere altri come loro durante le campagne belliche per la difesa dell'Islam, dietro consiglio di Omar ibn al-Khattab, tutto il testo venne raccolto e ufficialmente rilegato sotto l'amministrazione del califfato, che aveva indicato la metodologia da seguire ed assegnato l'incarico alle persone più competenti. Per questo compito fu scelto in particolare Zayd ibn Thabit, il più conosciuto tra gli scribi della rivelazione, che eccelleva anche nella calligrafia. Il piano metodico di Zayd ibn Thabit era basato su due fonti. Primo, quello che aveva trascritto lui personalmente e direttamente in presenza del profeta. Secondo, quello che era stato imparato a memoria da altre persone, ma ciò non veniva accolto se non con la testimonianza di altre due persone ben note, che dovevano riferire identicamente la stessa parte di rivelazione. Il frutto di questo impegno minuzioso, preciso e soprattutto verificato fino nei minimi particolari fu la prima copia ufficialmente autenticata del Corano e riconosciuta per ogni versetto e circostanza di sicura affidabilità da numerosi testimoni. Questa copia rimase in possesso di Abu Bakr fino alla sua morte, quindi passò a Omar fino al suo martirio, infine fu consegnata alla madre dei credenti, Hafsa, che Allah sia soddisfatto di lei. La pubblicazione del testo rilegato del Corano durante il califfato di Othman. All'epoca del terzo califfato, quello di Othman, si presentò a lui Hadaifa ibn al-Yaman con un gruppo della gente dell'Iraq dopo la conquista dell'Armenia. Costoro manifestarono forte preoccupazione a causa degli errori di lettura che si stavano diffondendo nel popolo e per i mutamenti nella corretta pronuncia che avrebbero potuto ostacolare la corretta comprensione del testo coranico. Per questo dissero a Othman: «O principe dei credenti, soccorri questa comunità prima che cada nelle contraddizioni sull'autenticità del libro, come quelle che lacerano ebrei e cristiani». Il califfo ben guidato accolse immediatamente l'invito di Hadaifa ibn al-Yaman, mandando a chiedere a Hafsa di mandargli la copia dello scritto da lei custodito per scriverne altre copie, rilegarle e diffonderle. Così Othman diede ordine a Zayd ibn Thabit, Abd Allah ibn al-Zubair, Zayd ibn al-As e Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham di produrre copie conformi a quel testo originale. Alla fine le copie furono spedite nelle varie regioni del califfato, mentre gli altri scritti raccolti in rotoli o papiri vennero bruciati. Tra i benefici raggiunti con la rilegatura del califfo Othman possiamo ricordare: primo, la trascrizione si basò sull'idioma dei Quraysh, perché la rivelazione avvenne attraverso il loro linguaggio. Secondo, vennero separate dal testo tutte le note interpretative o esplicative che i compagni del profeta aggiungevano alle loro copie personali per mantenere evidente il puro testo del Corano. Terzo, queste copie rilegate del testo coranico vennero trascritte senza segni diacritici o vocalizzazioni, lasciando così spazio alla recitazione del Corano in accordo con i 7 metodi di lettura risalenti alla tradizione profetica al tempo stesso, mantenendo integro il testo originario del Corano. A compimento dell'opera, Othman inviò una copia ad ogni capoluogo delle grandi regioni del territorio islamico durante il suo califfato. Queste copie rilegate del testo del Corano sono note col nome di Mus'haf al-Imam.